del vento, dolce spirito del cuor che sciogli l'anima dal pianto e dello scempio fai splendor e sai portarmi oltre la vita che vorrei. Porgi nel tuo manto i sogni che non hai vissuto mai. Levati in un canto sconosciuto e mi incontrerai. Da un vortice mi spoglierai là dove vive perso il tempo. Vai. Implorando salici gentili baglia un tepido candor e già si infrangono beffarde le onde uncine del fervor e nude insinuano nel gelido sentir. Sola puoi tentarmi sino a fingere di averti mia. Sai che puoi spiegare un volo tra vertigine e follia, tra vertigine follia, nello stento tu mi parlerai, mai vorrai come puoi sentir, mai vorrai dove puoi. Scendi donna livida e distante dentro il tempio del mio cuore, espandi l'anima cangiante in questo nomade cantor e accogli il mondo dentro un tempo che non c'è. Stai crescendo in fondo a quella voglia di sentirti mia. Stai varcando il segno ardendo tra vertigine e follia, tra vertigine e follia.